Rock FM. Certo che c'è gente che non ha proprio niente da fare tutto il giorno per andare a inventarsi delle leggende metropolitane decisamente colorite. Ce ne sono di curiosi che investigano sugli idiomi. Eccolo lì, sì. Quanti idiomi. Parlavamo di The Dark Side of the Moon e ci chiedevamo se è forse una leggenda metropolitana quella che ipotizza che ascoltando l'intero album al contrario e visionando contemporaneamente il film Il Mago di Oz ci siano impressionanti sincronie. La risposta è quella? Ma potrebbe essere, anzi è quella esatta! Esatto. Guarda te, che deficienti! Ci siamo giocati subito l'asso! Segnaliamo che esistono siti internet in cui è presente la descrizione di cosa occorre fare per produrre questa sincronia, quali siano i punti in cui far ripartire la musica e via dicendo, anche perché segnaliamo che i due capolavori, Il Mago di Oz e The Dark Side of the Moon, non hanno la stessa durata. Il film dura quasi un'ora e Dark Side of the Moon 40 minuti, quindi bisogna anche metterlo in pausa per vederlo al contrario. Segnaliamo anche che David Gilmour, il chitarrista dei Pink Floyd, ha recentemente smentito qualsiasi tipo di legame con la pellicola Il Mago di Oz. Ma poi c'è uno che se l'è ascoltato tutto al contrario, capito? Sì. E ha anche pensato, metto su un film, cosa metto? Il Mago di Oz. Ma ci sono curiosi e sperimentatori attrezzatissimi, agguerritissimi nell'ambito del rock. Lei pensa alle leggende metropolitane legate alla morte di Paul McCartney. Certo. Lei pensa alle leggende metropolitane legate all'ascolto di Chinotto al contrario. Infatti. Non l'ho mai sentito. Ma numerosi sono sorti tantissimi siti web ai quali io rispondo regolarmente. Viva le leggende metropolitane, pane per il test attitudinale di Pane, Burro e Rock and Roll. ci volete fare? Pink Floyd, Time. Si chiama doppietta a casa mia questa, eh? Grazie probabilmente all'ascolto frazionato, quindi che vi impedisce di ascoltare tutte e due le ore, ve la siete persa, però avevamo iniziato con un brano di Dark Side of the Moon anche proprio alle 7 del mattino per dedicare così la giornata a questa Milano coperta di bianco, e insomma ce la siamo gustata, invece siamo rigustati Dark Side of the Moon con Time grazie alla domanda del test attitudinale. Vedo con piacere che in molti hanno apprezzato. Al 335 1007777, iniziamo il rush finale di Pane, Burro e Rock and Roll, dove un bel po' di cose bisogna farle. Allora, senza perdere di vista la possibilità di diventare musicisti rock con la bocca, che ricordo sempre, le iscrizioni sono aperte, ragazzi, no, non facciamo gli ignorri, eh? Questo 2008, l'anno della svolta, che poi noi, ero timido, non l'ho voluto fare, ma mi sono pentito. Iscrivetevi al nostro numero di SMS, sarete poi richiamati nel corso delle prossime settimane. Ma abbiamo un'altra novità lanciata qualche giorno fa, la storia del disimparare l'italiano grazie ai nostri inviati. Abbiamo dei nuovi inviati. Un paio di giorni fa abbiamo ascoltato Pietro, il nostro inviato che ci insegna il calabrese e ci disimpara l'italiano. Quest'oggi abbiamo un nuovo amico che conosceremo tra pochi minuti. Tra l'altro, visto il clima così di neve, casca anche a fagiolo, perché andiamo in cima all'Italia per disimparare l'italiano. E poi non facciamo gli ignorri, c'è Marina da Genova che mi ha smesso di fumare ieri alle 6 del mattino, bisogna vedere cosa ha combinato. Quindi tanta la carne da gettare sul fuoco della colazione di Pane, Burro e Rock and Roll, che intanto prosegue col classicone Spirit in the Sky, Doctor and the Medics. Che c'è da ridere, voi direte? Mi fa ridere Doctor and the Medics, o mi fa ridere Spirit in the Sky? Boh, tutte e due. I'm gonna go to the place that non posso, non posso trattenermi. Perché? Non posso trattenermi dall'esternare il mio malumore, perché la Libera Università di Lingua e Comunicazione ha deciso di conferire la laurea honoris causa in televisione, cinema e produzione e per aver insegnato l'italiano agli italiani. E perché apri i cantoni noi? Esatto, tra una gaffa e l'altra, mai buongiorno. Che rabbia! Pane, burro e rock and roll non ci sta! Nuova rubrica, abbiamo sentito il nostro Pietro inviato dal centro della Calabria per disimparare l'italiano insieme. La nostra redazione ci... È la foga. La capisco. La nostra redazione propone un nuovo inviato. Questa volta dalle cime dell'Italia dovremmo essere in collegamento con il dottor Prussia per impararci il dolomitese e disimpararci l'italiano. Pronto, salviamo il dialetto Prussia. Buongiorno a voi esimi dalle Dolomiti, dalle tre cime di Lavaredo. Esattamente. Buongiorno Prussia. Buongiorno esimio linguista, lei ci propone un dialetto dolomitico, un freddo dialetto dolomitico. Nello specifico quindi non è veneto. Sì, è un incrocio fra veneto, ladino e ogni zona delle Dolomiti, soprattutto fra il Veneto e il Trentino Alto Adige, si differenzia comunque di paese in paese con varie inflessioni. Molto interessante. Caro Frick, la laurea honoris causa è qui. Ce l'abbiamo. Stava dicendo, Prussia? Che la mia è quella più vicina alle zone di confine fra il Trentino e il Veneto, quindi Auronzo di Cadore. Bene, quindi questo è un dialetto che si utilizza in qualsiasi frase. L'altro giorno sentivamo con l'amico calabrese, lui ci ha sfoderato un proverbio. Lei, dottor Prussia, con cosa ci mette alla prova? Ma con delle frasi semplici, conoscendovi, per rendervi il tutto più giusto, facile. Al nostro livello, grazie molto fatto, giusto. Ha fatto veramente bene. Parte con un saluto che può essere, visto che abbiamo trascorso da poco i periodi natalizi, un augurio di buon anno entrando in un bar. Quindi uno entra nel bar e dice buon anno, giustissimo. Può entrare, vedere la persona di fronte a lui, dirgli ciao, come stai? Esatto. Fai gli auguri a te. Questo come ci ha insegnato Mike Buongiorno in italiano. E invece come noi di Pane Burro Rock and Roll faremo in futuro, diremo oh come sosto, fai gli auguri a te e alla tutta la famea. Oh, ti sei sosto. Maestro Prussia, ho perso qualche colpo. A pezzettini, la prego. Iniziava saluto, tirando anche un po' la testa verso l'indietro. Come sosto. Sì, poi? Fei auguri de bon an. Fei auguri de bon an. No, de bon an. De bon an. De bon an. A ti e a tutta la famiglia. A ti e a tutta la famiglia. Avuta. Con la V di Verona. Avuta la famiglia. Con la D di Domodossola. Aduta la famiglia. Esatto, adesso aduta ripetete insieme. Ci deve aiutare. Come tosto. Fei auguri de bon an. Fei auguri de bon an. A ti e tutta la famea. A ti e tutta la famea. Grazie Prussia. Saluti alle tre cime di Lavaredo. Bravo. Ci sentiremo presto. Grazie per i complimenti. Bravo a lei. Salviamo il dialetto. Grazie Prussia, grande linguista. Don't want Quello che ci vuole, bravo Spadino, bravissimo, era il brano esatto per il collegamento che stiamo per fare, erano i Beatles di Something, una canzone dolce, tranquilla, rilassata, che potrebbe essere d'aiuto a Marina, la nostra radioascoltatrice genovese, che ieri alle 6 del mattino ha deciso di smettere di fumare. Buongiorno Marina! Ciao ragazzi, va! Sta andando avanti, riuscita a tenere duro. Zero sigarette da ieri. Zero sigarette, però sono veramente strane. No, aspetta. Marina, permettimi di ricordare ai radioascoltatori che non abbiamo la minima preparazione psicologica per affrontare questa cosa, né noi di Pane, Burro, Rock and Roll, né Marina. E neanche io, guarda, ce l'ho. Io ho cercato di difendermi e la giornata non era neanche positiva perché è venuta tutta sta cazzo di neve a Genova. Quindi io aspettavo un amico che venisse a farmi così un po' di conforto, non ha potuto venire, allora ho deciso di dire la maleducazione di Almodovar, a metà film mi è partito il dischetto, non sono più riuscita a vedere, avrei dato il... Ma ti vengono i quadratini, si blocca con i quadratini? Sì, cioè si blocca, no? Andava avanti e niente, in più c'ha avuto la rottura di... la rottura tra virgolette lì, stai tranquilla, vai, lasciati pure andare. Sì, guarda, devo sfogare il mio cognato Massimo, che per me è un fratello, che non mi crede, quindi ieri mi teneva il menaggio, mi rideva dietro. Io ci terrei che lui mi credesse. Lui fa il fornaio a Genova, fa il pane, un ragazzo giovane, sì, ed è matto secondo me, perché se tu adesso chiami il forno lui ti risponde pronto sexy shop stamattina. Lui chiami un forno e ti dice pronto sexy shop, però è bravissimo, non è matto, è simpatico. Allora, e però non riesco a convincere lui, mia sorella sì. Guarda, e questa io... mi dà un po' poca, però no, va bene, noi possiamo... io sono convinta. Guarda, Marina è un treno, già da ieri sei cambiata da così a così, sarà che... Ricordiamo che eri fumatrice anche abbastanza incallita, non... Sì, no, io ho 40 sigarette oramai tutti i giorni e da 14 anni che fumo, ne ho 47, cioè mi sono veramente affumicata. Quindi per adesso la stai affrontando dicendo, boh, invito qualcuno, mi guardo un film, però devo dire che hai invitato qualcuno, non è arrivato, hai visto un film, ti sei inceppato e hai resistito. Sì, ho resistito, mi sono concessa... la cioccolata, la Lindt, mi sono sbaffata un po' di India, un po' di Lagavulin, che è un whisky buonissimo. Quindi ora devo semplicemente stare attenta, però. A non diventare un alcolista. È brava, no, però vabbè, niente, io ci sto provando, spero di riuscirci. Guarda, per gli alcolisti ci proviamo poi magari con qualcun altro o fase successiva, Marina. Intanto l'unica cosa che possiamo fare noi di Pane, Burro, Rock and Roll è sostenerti per le 2 ore del mattino. Io vi ringrazio. Poi dopo devi far tu. Io stamattina non vado neanche a lavorare. Ecco, volevo affrontare questo altro discorso adesso, Marina, perché me lo aveva già confessato in fuori onda, mi ha detto stamattina non vado al lavoro. Adesso non è che per smettere di fumare, però mi devi perdere il lavoro, eh. No, non lo perdo, sono dipendente ospedaliera, per fortuna non lo perdo, però oggi non ce la faccio perché c'ho i colleghi che fumano. Poi intanto c'è sabato e domenica, quindi lunedì ci arriverò in un altro modo ancora. Ti sei già inventata qualcosa per il weekend? Sì, per lunedì mi porto dietro i famosi reganissi, che qua a Genova si chiamano reganissi, sono bastoncini di liquirizia. Bravo! Quindi partirò con i miei reganissi che ti danno la sensazione di averci appunto qualcosa sotto i denti e poi c'hanno la forma di sigaretta. Uno fa come può, Lunedì vado con i reganissi, ieri tra neve tutto e oggi neanche, no, non ce la faccio, oggi allora, sono chiusa in casa. Marina, siamo in squadra con te. Grazie. Gli sms che arrivano di solidarietà non li conto più. Ci si risente lunedì, stai tranquilla. Sì, io vi ringrazio tutti e niente, spero di farcela. No, ce la devi fare. Ce la ormai devo fare, vero? Guarda, secondo me già lunedì sarà un passaggio fondamentale se ti sei sparata tutto il weekend. O in ogni caso, no problema, noi ti vogliamo bene lo stesso. Grazie, Ariel. saluta un po' con la testa di cazzo del panettiere di Massimo. E che mi lasci stare, che non mi stia a torturare. Marina, non oso pensare quanto sarai nervosa lunedì, ma non vedo l'ora di risentirti. Io non lo so neanche io, guarda. Buon weekend. Ciao. Grazie ragazzi, buon weekend anche a voi. Ciao. It's over, baby. You say that it's over now, but still you hang around. Now come on, won't you move over? You know that I need a man. You know that I need a man. But when I ask you to, you just tell me that maybe you can. Doppietta di signore, chiudiamo la diretta di quest'oggi. Da Marina di Genova siamo passati a Janis Joplin, Move Over. Manca un minuto alle 9 del mattino e andiamo ad archiviare questa puntata 154 di Pane, Burro e Rock and Roll. Per chi fosse interessato al DJ set dell'Ariele o al calendario 2008 che porto sempre dietro con me, questo sabato, amici milanesi, ci troviamo all'Atomic Bar di Milano, che ci si diverte con me e l'operaio del rock and roll qui vicino alla radio, tra l'altro. Mentre gli amici toscani, ragazzi, preparatevi settimana prossima, il 12, alla Flog di Firenze. Lì c'è il festone ufficiale di Pane, Burro e Rock and Roll, con anche le patenti da vero rocker, testa attitudinale, i miei pay dal vivo, Roberto Fricantoni dal vivo e anche Max De Rio ad aiutarci con il DJ set. Insomma, la vera festa sabato prossimo all'Auditorium Flog di Firenze. Andiamo ad archiviare la puntata di quest'oggi e non so se la risentite su internet. Pane, burro e rock and roll. Perché qualcuno si è lamentato che non è aggiornata. La tua colazione rock. Io però me ne lavo le mani, eh. Ah sì. pane, burro e rock and roll. Ieri ho costretto Spadino, come tutti i giorni, a mandare il file, quindi noi siamo a posto. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ogni giorno dalle 7 alle 9, l'Ariele, Roberto Fricantoni e Spadino. Ragazzi, è andata, vi auguro un ottimo weekend. Vi ho ricordato le coordinate per passare a trovarmi se siete interessati all'argomento. Vi lascio con Marco Garavelli in virtuale fino al mezzodì e a seguire Easy Rider. Per pane, burro e rock and roll è veramente tutto. Grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Ci si risente settimana prossima. A lunedì prossimo. Ciao.